140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie e il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Universal Music, Milano. Joe Patti's Experimental Group. Un CD con un nome italo-americano, ma dietro ci sono il sound engineer Pinaxa e un grande maestro, Franco Battiato. Non posso dire che è una cosa voluta, no? Però fu una coincidenza di due ragazzi di 16 anni che mi hanno regalato due dischi, probabilmente uno dei loro genitori nell'anno 72-73 li aveva registrati, e quindi ho scoperto che c'era una modernità veramente... Difatti anche in questo, certi recuperi, non si capisce qual è quella moderna e quella antica, diciamo, no? Non si capisce. Anni in cui si sperimentava, si inventava, c'erano i primi strumenti elettronici, sì. E il gioco era anche andarli a scoprire. Adesso sembra tutto più facile. Beh, adesso è tutto più facile. Non hanno più Finestre. I colori del buio. In un mondo invece nel quale noi che negli anni 70 ci siamo nati e quindi non li abbiamo vissuti appieno, ci raccontano invece non solo di grandi sperimentazioni, ma anche di grande libertà, di grande divertimento. Era così? Era così. Noi ad esempio senza abbiamo... pietà. Divertimento senza pietà è bella. E sentire invece dei brani che adesso anche ripercorriamo con questo progetto di Joe Patti, diventare sigle televisive, riascoltandolo, TG2 Dossier ti ha accompagnato per anni. Ancora oggi c'è, da 72-73, è stato quel geniaccio di Ezio Zeffiri che mi ha perseguitato dicendo dammi questo, perché per me la televisione era come il diavolo, ecco, no? Però quest'uomo molto interessante, faceva una trasmissione molto seria, non ce l'ha fatta a portarmi in studio perché voleva che io la facesse dal vivo. Ha detto no, guarda, te la do così com'è, ed è rimasta per sempre. Pazzesco. Ha detto la televisione era come il diavolo e adesso? Una nullità, una vera nullità, a parte certi programmi che fa la BBC o anche sul nostro territorio, Rai 3 soprattutto, spesse volte usano dei filmati interessanti, allora su quello mi fermo, però la politica mi ha stancato, non riesco più a seguirla. Sempre per quanto riguarda questo progetto di Joe Patti, quando a me è arrivato il CD, io, come si fa oggi, ho googlato per sapere chi era Joe Patti, perché ho detto chi è questo artista nuovo, interessante. Ho googlato e ho scoperto in realtà che Joe Patti era un commerciante di pesce, però c'è in realtà un link a tutto questo. Come è nato questo nome? Era il fratello di mia madre, che all'età di 19 anni ha lasciato la Sicilia ed è andato a Pensacola. Cominciato con una barchetta a pescare e poi dopo un ventennio è diventato ricchissimo con navi, cose, trasportava il pesce in tutta la Florida, insomma. E allora, come omaggio, ho detto. Poi era venuto a trovarmi in Sicilia lui e sua moglie. E una mia cugina, nell'ultimo tour che abbiamo fatto, Apri di Sesamo, che ha 81-82 anni, si è fatto il giro con noi, che era la figlia di Joe Patti. Cosa le ha lasciato questo progetto? Perché quando poi si pubblica un CD, il CD è chiuso, stampato, non si modifica più e nasce un rapporto con un oggetto che è una parte della propria vita. Sì, però sono tutte tappe. Non, è difficile considerare oggettivamente le cose che scrivi. Io mi ricordo L'animale, no? Una canzone che credevo non avesse avuto alcun successo, proprio ero sicuro al 100%. Un giorno, dopo 4-5 anni, dico quasi quasi la canto questa canzone. E migliaia di persone che la cantavano. Dipende. Che tipo di rapporto hai con una canzone in privato? Quello è che cambia le cose, no? E sono rimasto allibito, allibito, perché non succedeva con altre che magari sembravano più popolari e così, non è facile Adesso che desideria? di crescere come essere spirituale. Questo è il mio fine. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Franco Battiato. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter, @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.